siamo tuoi più dell'acqua per chi ha sete, siamo tuoi in quest'arida estate, siamo tuoi tu ci nutri e ci disseti, siamo tuoi dolce fuoco dell'amore. Ave regina del cielo, donna vestita di sole, dona l'amore e il calore, riscalda il mio cuore. Siamo tuoi, come rose per l'amata, siamo tuoi, negli affanni della vita, siamo tuoi, tu sei balsamo soave, siamo tuoi, e ci porti al tuo figlio, ave regina del cielo. Vita di sole, dona l'amore e il calore, riscalda il mio cuore. Bella, sei la nostra stella. Bella, ma bella, sei la nostra mamma. Dona l'amore e il calore, riscalda.